scusa se la luna storta, se sbaglio ancora una volta. Non ho la coscienza sporca, nemmeno un senso di colpa. Distesi, cancella i pensieri, non dirmi ti amo, il cuore al contrario. Prima ti bacio e poi vai, baby, e sbaglia. Tu se credi che ti richiami, ma è stato bello perché c'è stato. Non provare a prendermi, te lo dico già, rischi di perderti. Ah, ma te lo dimentichi, sì, forse perché ti mando in estasi. Non mi sai dire no, doveva essere l'ultima, l'ultima, ma ora sono l'unica. L'unica, l'unica, tu è l'ultima, ultima chance. L'unica, l'unica, tu è l'ultima, ultima chance. Sono romantica, ma ora non so più come si fa. L'ultima verità, per te sono già l'unica. Non ne voglio canzoni d'amore, a me basta che per me vai fuori. Sei già il cielo chiuso in una stanza, non ti servono gli altri colori. Ho tutto in disordine, scusa se la luna storta. Non dico ti amo, per questo menti, dici il contrario. Sappiamo entrambi che è stato bello perché c'è stato. L'unica, l'unica, tu è un'ultima, ultima chance. L'unica, l'unica, tu è un'ultima, ultima chance. L'unica, l'unica, tu è un'ultima, ultima chance. L'unica, l'unica, tu è un'ultima, ultima chance. Sono romantica, ma ora non so più come si fa. L'ultima verità, per te sono già l'unica. Ma ora sono l'unica.